Ci sono muri che sentono e vedono, ci sono spie nel mio microfono, so bene che sono soltanto un numero tatuato sotto la pelle, con un codice a barre come sbarre d'acciaio. Non credo alle balle, hanno messo gas in nome del progresso nel mio ossigeno. Controllano, parlo al telefono, camuffo il mio lessico più che il braccio di un tossico. La mia testa stretta da un laccio, catene di montaggio, uomini automi danno olio all'ingranaggio. Colletti bianchi al potere, tra bocchini sotto scrivanie, tracciano strategie per nuove lobotomie. Squali vogliono vegetali, schiavi in fila come militari, perciò mandano i loro emissari a scuola i miei professori, in strada pubblici ufficiali, messaggi subliminali nei televisori, predicatori vendono la fede a rate, comprare ubbidire, ma non sapranno mai le mie coordinate. Non hanno capito che la chance che mi piego subito, che una moneta cade croce 100 volte di seguito, valgo più di 4 cifre, non credi, cronache di regime, cose che non vedi, cose che non vedi, che non vedi, cospirazioni, cospirazioni per il 2000, per il 2000, sana scuola, sana scuola, sana scuola. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla quinta puntata di Cronache di Regime, oggi lunedì 7 marzo. Allora parleremo di varie argomentazioni all'interno di questa puntata, parleremo un po' del conflitto russo-ucraino, poi faremo un collegamento con un compagno per parlare della nuova operazione repressiva che c'è stata in Trentino, sempre rimanendo sul lato repressione. Ci saranno degli aggiornamenti da Torino sull'operazione Scintilla e più nello specifico sull'avanzamento processuale di questa operazione che ha portato allo sgombero dell'asilo occupato, lo ricordiamo, nel febbraio del 2019. Faremo un collegamento poi in provincia con i compagni e le compagne di Busto, come avevamo anche già preannunciato un paio di settimane fa quando avevamo presentato il corteo insieme ad una compagna, e cercheremo di capire com'è andato appunto il corteo contro il Green Pass ed oltre del 26 febbraio a Busto. Poi proveremo a fare un collegamento con un compagno per parlare di Grane, di questa iniziativa, un ritrovo, un raduno diciamo per fumettisti, per chi fa riviste, fanzine, eccetera. Poi ci spiegherà meglio lui. E questo ritrovo si terrà tra il 14 e il 15 maggio al Boccaccio, e infine intervisteremo un gruppo di Torino, come al solito ogni volta a fine puntata proviamo ad intervistare un gruppo musicale, e intervisteremo i Colpos che presenteranno il loro CD Pandemic Punks. Allora iniziamo subito con un po' di musica. Prima di entrare appunto nello specifico del conflitto russo-ucraino, mandiamo un pezzo di un gruppo ucraino, hardcore, straight edge e antifascista, X Declaration X, e questa è la loro traccia, Disobedience. Yeah, we're on the ground, yeah, we're on the ground, yeah, we're on the ground, yeah, we're on the ground.

Torniamo in diretta con Cronache di Regime, sempre sulle frequenze in streaming di Mala Radio. Abbiamo parlato del conflitto russo-ucraino e ora stiamo provando a collegarci con un compagno per farci due chiacchiere a riguardo della nuova situazione repressiva che c'è stata in Trentino. Allora, vediamo se c'è il compagno. Ciao, ci senti? Sì. Ciao, ciao, ci sono. Ciao, ciao, ciao. Benvenuto a Cronache di Regime. Grazie. E niente, quindi come detto, insomma, il 25 febbraio sono arrivate nuove misure cautelari in Trentino e quindi volevamo chiederti un paio di parole a riguardo e un aggiornamento della situazione. Sì, magari sarà utile, insomma, descrivere brevemente quanto è successo su due venerdì fa, sul 25 febbraio. Come no? Vai, vai, vai. Pensaci tu. Ma, riassumiamo. Nella mattina del venerdì 5 febbraio, tre compagni e una compagna sono stati sottoposti a delle misure cautelari a seguito di un'operazione che li che riunisce i nostri quattro compagni in tre fatti per cui vengono imputati diversi, diciamo. C'è si tratta di un'inchiesta alquanto strana che a questo giro, diciamo, non viene nominata con delle fantasiosi titoli per i nomi di operazioni. E, come dicevo prima, sono imputati per fatti diversi, dislocatisi in momenti diversi. Da Quan, se chi ci ascolta non lo sa, è un compagno anarchico che è recluso già dal 2019 perché è stato accusato di aver piazzato un ordigno esplosivo davanti alla sega di Villorba vicino Treviso. Poi magari ne parliamo dopo. Questa volta viene nuovamente accusato per qualcosa di analogo. Più precisamente viene accusato dal 25 di attentato presso il Tribunale di Sorveglianza di Rovereto, in particolare accusato di aver piazzato un ordigno esplosivo, anche questa volta nei pressi del Tribunale di Sorveglianza di Rovereto, ed è un fatto che risale al, secondo le cartacce della magistratura, al 28 gennaio 2014. Poi magari parleremo dopo meglio di questo aspetto. Passando agli altri compagni, Stecco Agnese, sono due compagni che in questa inchiesta dello scorso 25 febbraio sono stati accusati di, in sostanza, di favoreggiamento alla latitanza, o più precisamente di procurato in osservanza alla condanna. Perché sono accusati di aver favorito la litigianza del compagno Quale, di cui si è parlato un minuto fa, visto che c'è stato una Quan, prima di essere stato incarcerato nel 2019, è stato il latitante dal 2017 al 2018. Stecco Agnese sono accusati di aver favorito la latitanza di Quan tramite la falsificazione di documenti che avrebbero favorito appunto la situazione, la latitanza, la condizione di latitante di Quan, ma che avrebbero anche favorito, secondo le carte della magistratura, la possibilità di fornire un'abitazione. Poi passiamo al quarto compagno, a Massimo, che sta già scontando da tempo dei definitivi, da novembre 2020, definitivi in forma di arresti domiciliari, e si ritrova dal 25 con un'altra misura cautelare che è di domiciliari, che lo può per via di un reato molto strano a cui gli viene imputato, ovvero estorsione ai fini di terrorismo, ovvero estorsione per ai fini dell'ordine democratico, del 70 bis 1. Tutto questo perché nel 14 aprile del 2020 alcuni compagni sono stati accusati, cioè lui è stato accusato di essere entrato con alcuni compagni, di essere entrato, diciamo, nella sede di Radio 80, una sede, la sede radiofonica di un'emittente locale roveretana, per essersi presi un momento di uno spazio per fare un intervento urgente e necessario, visto che era il 2020, erano i primi tempi del lockdown, intervento urgente rispetto a quello che era successo nei carceri di Modena e tante altre carceri d'Italia durante i primi l'8 e il 9 marzo, ovvero delle rivolte e delle stragi in carcere che hanno portato anche alla morte di 15 reclusi nel carcere di Modena. Per qualcuno molto probabilmente è stato doveroso parlarne in qualsiasi forma e di allargare il messaggio. Rispetto a questo contesto, Massimo è stato accusato di estorsione ai fini di terrorismo, cioè una cosa veramente un reato quanto bizzarro, mai sentito, abbastanza inedito. Estorsione di cosa, poi ci chiediamo, sarà estorsione dello spazio pubblicitario di una che in questo frangente diciamo costituisce il profitto diciamo della radio che è stato sottratto per il momento nel quale dei compagni hanno voluto dire la loro e rispondere un messaggio molto importante rispetto a quello che era successo a Modena poche settimane prima rispetto a quel giorno nel 2020. Quindi si parla di Juan, Agnese, Stecco e Massimo. Ritornando al discorso, ritornando a Juan, ve l'ho già detto prima che è stato sottoposto ancora a una misura cautelare di carcere, di arresti in carcere. Lui sta scontando già, anzi no, non sta scontando niente, ancora in attesa di giudizio, quanto in carcere dal 2019, ed è in attesa di giudizio per un'accusa che gli è stata affioppata rispetto al piazzamento di un ordine esplosivo nella sede di Villorba vicino Treviso nel 2019. Poi magari in due parole parleremo meglio di questa cosa. Allora, volevo dire una cosa rispetto a questa inchiesta. In questo caso si tratta di quattro compagni che vengono accusati di fatti distinti nel tempo, nei luoghi, e quindi questo giro magari la magistratura li sbirri, non voglio fare le supposizioni rispetto a quel che pensano, però non sono riusciti a creare quel reato associativo come collante che riunisce i compagni. Infatti ci si chiede, c'è una porta ancora una volta a pressare, a reprimere duramente nei nostri compagni quando c'è già un certo livello di repressione, diciamo, che già alcuni stanno scontando e altri stanno attendendo. Se noi notiamo, cioè leggendo le carte, ci si rende conto che la magistratura fa tutto un giro di parole per ricondurre le azioni tra il 2014 e il 2019, azioni o non, ricondurre il tutto rispetto a una sorta di ideologia anticarceraria. La cosa strana è proprio questa, che leggendo le carte della magistratura si viene a notare che si parla spesso di ideologia anticarceraria, sia per quanto riguarda i moventi diciamo che hanno portato Juan, che avrebbero portato Juan come avrebbero reso Juan responsabile di quell'azione, ideologia anticarceraria che avrebbe spinto dei compagni o come Massimo a intervenire in radio. È assurda questa cosa ed è evidente che rispetto ai tempi si voglia proprio parlare di, si voglia proprio tentare di annientare la solidarietà con chi lotta in carcere e anche con chi subisce la quotidianità nel carcere, che è una quotidianità che sicuramente si è esasperata dallo stato d'emergenza per via della pandemia della Covid-19. Abbiamo già visto dai primi giorni come il mondo è cambiato e forse sono stati anche i detenuti a farci capire in tempo che tante cose sarebbero cambiate da marzo 2020, perché sono stati proprio i primissimi a rivoltarsi in Italia. E da lì si è capito che il minimo che si potesse fare era dare solidarietà, rompendo l'isolamento, con tante piccole e grandi azioni. Quindi l'idea è che questa ennesima azione repressiva rientra proprio in un contesto in un contesto nel quale si vuole rompere ancora di più l'isolamento, con chi lotta all'interno delle carceri. Un altro aspetto che si potrebbe dare conferma di questo è che i PM che hanno firmato le carte di questa inchiesta, quella del 25 febbraio nei confronti di nostri quattro compagni, sono gli stessi PM, come il PM Ognibene, Raimondi e Profiti, che sono firmatari di altre notifiche di denuncia per quanto riguarda delle giornate di solidarietà davanti al carcere di Spini di Gardolo. Poco, due mesi fa sono arrivate delle denunce adesso alcuni compagni che nel novembre 2020 in uno dei tanti presidi davanti a Spini di Gardolo hanno espresso la loro solidarietà e tentato una comunicazione con i reclusi all'interno per sapere quello che succedeva dentro e quant'altro. E appunto gli stessi PM hanno disposto queste notifiche per istigazione alla disobbedienza delle leggi, istigazione a delinquere. Insomma, a vari livelli sembra che in questo periodo si voglia veramente spezzare la solidarietà e la comunicazione con i detenuti in lotta, ma anche con tutti i detenuti e tutte le detenute nei carceri, visto che di merdate, scusate, ne succedono sempre più. Già dall'inizio del 2022, tra tentativi di rivolta e suicidi, infatti non ne sono mancati. Il carcere di Spini di Gardolo è un carcere famigerato per quanto se ne rivendichi una certa modernità, data la recente costruzione, l'idea di essere un carcere moderno, più umano, ma è tutta retorica questa, e lo dimostrano tutti i fattacci che sono avvenuti negli anni passati. A proposito dell'azione di Quan, a cui è stato, ripeto, imputato, diciamo, è stato appioppato reato di terrorismo perché avrebbe piazzato lui un ordigno esplosivo davanti al tribunale di sorveglianza. Quello era un periodo nel quale i magistrati di sorveglianza continuavano a rigettare le richieste di misure alternative alla carcerazione nei confronti di tanti detenuti del carcere di Spini di Gardolo che chiedevano misure alternative, vuoi per condizioni di salute, vuoi per altri motivi. Tant'è che alcuni detenuti che facevano a tempo richiesta di misure alternative morirono, tra l'altro. Insomma, è importante continuare a ritrovare il filo di questa repressione, diciamo, con il tentativo di repressione dei nostri compagni, col tentativo più generale di spezzare la solidarietà con i detenuti all'interno di tutti i carceri. Ecco, questo ci tenevo a dire. Sì, hai parlato, insomma, della situazione all'interno delle carceri, dei suicidi, delle rivolte, tentative di rivolte, io ti aggiungo anche di un po' di evasioni che ci sono state, purtroppo hanno quasi ripreso tutti, una c'è stata proprio in questi giorni qui al carcere di Trieste, ma ne parliamo dopo con la radio quando diamo i soliti aggiornamenti dal mondo delle sbarre. E niente, il quadro è abbastanza completo riguardo la situazione repressiva nuova che si è venuta a creare. Già che ci siamo, volevamo chiederti qualcosa in più, di più specifico sulla situazione di Juan, degli aggiornamenti, insomma, sulla sua situazione carceraria e sulla sua situazione a livello processuale, se ci fossero un po' di iniziative in vista del processo, un rilancio, insomma, a riguardo. Sì, allora, Juan, è arrestato dal maggio 2019, è detenuto al carcere di Terni, in attesa di giudizio appunto per l'accusa di strage. Assurdo che ci troviamo con un compagno che viene accusato di strage in questo periodo, lo Stato conferma il suo carattere stragistico, vedi appunto quello che è successo a Modena nel 2020. Il nostro Juan è accusato di strage, perché secondo la magistratura nel tribunale di Treviso dove si tiene il processo sarebbe accusato di aver piazzato un ordine esplosivo alla sede di Villorba in provincia di Treviso, alla sede della Lega di Villorba. Sappiamo che continua ad essere in regime di alta sorveglianza Sono state fissate da tempo le udienze, le prossime risulterebbero essere il 2 aprile. Il 2 aprile, il 16 marzo e il 9 aprile. Il 9 aprile ci sarebbe sentenza, però c'è la possibilità che vengano rinviate le udienze per richiesta dell'avvocato difensore di Quan. Quindi noi proveremo, da qui proveremo a dare aggiornamenti a tutti rispetto anche alle possibili iniziative di solidarietà rispetto a Quan, perché c'è anche un'ampia probabilità che queste udienze vengano rinviate per la richiesta dell'avvocato che da poco tempo sta seguendo Quan. Quindi diciamo dovrebbe esserci sentenza il 9 aprile, ma è probabile che già appunto dal 19 marzo si fa la richiesta appunto di si darà risposta alla richiesta dell'avvocato difensore di rinviare l'udienza. Va bene, perfetto. Allora magari poi dopo ci risentiremo sicuramente più là in vista della sentenza o prima o dopo e così ci facciamo una chiacchierata a riguardo anche per rilanciare delle iniziative, semmai ce ne saranno chiamate dai compagni, dalle compagne del Trentino. Ti ringraziamo per la disponibilità. Sì, grazie a voi. Appena ci sarà ovviamente un aggiornamento rispetto dal 19 rispetto al rinvio dell'udienza e della sentenza, se la sentenza del 9 slitta, poi appunto aggiorneremo e ci sarà modo di confrontare, di aggiornarsi, ecco, per iniziative possibili. Perfetto, dai, noi ora ecco, ti lasciamo e ci sentiamo appunto due gruppi punk hardcore trentini, ci sentiamo prima gli Attrito con Immagini e poi con Genio con Ira. Ciao e buona serata. Un abbraccione, ciao, ciao.

Allora, torniamo in diretta con Cronache di Regime, sono le 20.07, ricordiamo un attimo i contatti, per chi volesse potete scriverci via sms o via telegram al 351 5579 698, potete scriverci alla mail cronachedi.regime@autistici.org e seguirci su Facebook ed Instagram. Allora, torniamo a Busto Arsizio, dove eravamo andati un paio di settimane fa per parlare con una compagna che ci aveva un po' spiegato il perché della chiamata del corteo, e appunto ritorniamo lì in provincia per capire come è andato questo corteo e ci facciamo una chiacchierata. Ciao, ci senti? Ciao, sì, ciao. Siamo in due. Ah, ciao, siete in due. Beh, bene, dopo il corteo vuol dire che raddoppiate, quindi siete iniziati ad essere una moltitudine. Perfetto, perfetto. Niente, vabbè, come avevamo già detto anche un paio di settimane fa durante l'intervista di lancio del corteo, c'era l'intenzione di risentirci, e quindi niente, io vi chiedo insomma di descrivere un po', se volete, come è andato il corteo di Busto, i numeri, gli interventi, se sono stati partecipati o meno, se è stata più una chiamata d'area, mentre piuttosto c'è stata una grossa partecipazione locale, insomma, quello che volete dirci a riguardo del corteo. Volentieri. Ma allora, il corteo di sabato 26 febbraio è stato decisamente un bel corteo, ha visto una partecipazione abbastanza notevole per la città di Busto Arsizio. Si sono contate almeno un migliaio di persone, e di queste devo dire che, come dicevi tu, di area, di un movimento già preesistente, che si conosceva, eccetera, si contano poche centinaia, saranno state 200-300 persone provenienti da gruppi organizzati, politici, già preesistenti prima della situazione del Green Pass. Quindi un buon numero di persone della zona e anche tanti gruppi che venivano da Milano e anche da fuori la regione, cioè da Trieste, da Roma, da tanti altri posti. Da Milano hanno partecipato vari gruppi che si sono visti o sono nati dalla piazza milanese, da quelli più dalle assemblee più dei lavoratori o i gruppi studenteschi o anche semplicemente gruppi nati dalla piazza, da persone che si sono conosciute nei mesi di ottobre, novembre, poi durante anche la repressione di dicembre. È stato un corteo molto partecipato e anche abbastanza lungo, è durato almeno tra le 2 e le 3 ore. E sul finale c'è stato un aperitivo in piazza, praticamente abbiamo occupato tutta la piazza centrale di Busto per qualche ora ancora. Durante il percorso sì, sono state fatte più tappe in alcuni punti dove c'erano più persone, sono stati fatti una serie di interventi, abbiamo avuto qualche problema tecnico con il microfono e la cassa, quindi questa cosa ha inibito un po' altri interventi, però qualcosa è stato detto ovviamente. E ovviamente, come era la chiamata, come era anche lo striscione di testa, questi interventi hanno spaziato su tantissimi argomenti che andavano oltre il Green Pass, da questioni più di, sul precariato, o in generale delle condizioni lavorative attuali, sulla sanità e la sua gestione, i tagli, su tematiche anche più di aumenti, e appunto, l'aumento del costo della vita più in generale. E anche una delle tematiche anche aggiunte all'ultimo, la sera prima ci si è trovati e si è aggiunta la parola guerra alla lista di parole che c'erano su questo striscione tra controllo sociale, carovita, sfratti, eccetera. Abbiamo aggiunto anche guerra ed è stato fatto anche un intervento su questa tematica qua, anzi più di uno in realtà. Beh, noi non possiamo che definirci, cioè sentirci in realtà soddisfatti di come sia andata, siamo davvero felici, ha superato anche le nostre aspettative. Secondo noi, quello che ha attirato tante persone, forse è stato, oltre tutto il percorso che comunque va avanti da luglio, è stato anche un po' questo tentativo, ma anche la capacità di legare tutti questi discorsi, di cui si era parlato anche la volta scorsa quando ci avevate chiamato, e riuscire a portare un disegno completo, facendo vedere che tante questioni sono collegate, intorno a queste questioni ci sono tante lotte che si possono intrecciare e che non si devono assolutamente escludere a vicenda. Infatti il titolo, per chi non lo sapesse, il titolo della manifestazione, diciamo, era appunto contro il Green Pass e oltre. E su questo possiamo ritenerci davvero soddisfatti su come si è andata e su come si è riusciti a portare la questione. Allora, ho visto perché poi, tra l'altro, sabato c'è stato il carnevale organizzato sempre a Busto. Non so se è frutto sempre di quel percorso lì o comunque di persone che si conoscono e interagiscono tra di loro. E volevo chiederti appunto se dal corteo, che ha avuto un respiro un po' più ampio riguardo dei discorsi che comunque erano già iniziati all'interno dell'assemblea, come ci spiegava la compagna l'altra volta, c'è un rilancio di prospettiva riguardo alle lotte, sempre in quell'ottica di oltrepassare il Green Pass. Ma allora, sul carnevale in realtà è stata una presenza in piazza, al contrario di altre volte, molto più tranquilla e diciamo quasi mimetizzata in quello che era appunto il carnevale in piazza. Abbiamo anche deciso di non portare il solito microfono, le casse, abbiamo addobbato la piazza come al solito con striscioni ovunque e cartelloni. Abbiamo portato giusto uno striscione per ritrovarci tra di noi. E ci siamo un po' mischiati in quello che era il carnevale, mettendo giù comunque delle tavolate con cibo e bere, offrendole a chiunque, e abbiamo portato un bel po' una cinquantina di maschere con personaggi politici da ogni Sì, Maurizio parte. Landini era il top. Maurizio Esatto, sì, Landini il top. da Landini a Putin, passando per Conte, Cingolani, ovviamente Draghi, Salvini, Letta, c'era Biden, c'erano veramente un po' tutti, e un po' il messaggio che volevamo mandare era: ci siamo vestiti da pagliacci, e praticamente era uno sfottò a tutta la classe politica, a tutti questi personaggi politici di cui nessuno si sente rappresentato, appunto. Era un po' uno sfottò in generale a questo. Invece, in generale, sulle prospettive future, diciamo che è un discorso iniziato anche nell'assemblea già da prima del corteo. Appunto, il corteo poi ha voluto un po' palesare con forza questa questione qua di andare oltre. Ci sono un po' di ragionamenti in corso, ci sono un po' di ragionamenti su come mandare avanti la lotta. Sicuramente una delle questioni fondamentali è stata quella di creare rete, di prendere contatti con altri gruppi, di anche riuscire a coinvolgere nuove persone sul territorio, appunto ampliando le questioni. E niente, quindi diciamo ancora in una fase dove si sta cercando di capire dove andare. Sicuramente la questione del Green Pass, questo mio parere personale, scemerà nei mesi a venire, però si paralizzeranno con forza altre problematiche, come ad esempio ancora di più sappiamo che l'aumento anche solo della benzina o del gas, cioè quello che stiamo vivendo ora è solo un antipasto. Sicuramente si creeranno delle nuove mobilitazioni spontanee, popolari, e avere già una base solida di un'assemblea popolare dove già, cioè, diciamo, può essere un supporto non male. E poi si aggiunge anche qualche ragionamento intorno alla questione della guerra, ne stiamo iniziando a parlare, e ovviamente legato anche a quello che comporterà qua da noi. E niente, quindi tutto in divenire. In più si sta, vabbè, ci sono un po' di idee su adesso la stagione estiva, stiamo pensando un po' di iniziative da fare all'aperto, oltre che le istituzioni di lotta, ma anche iniziative di vario tipo, culturali o ludiche, da fare ovviamente in giro, aperte a chiunque, visto che tanta gente non può andare nei teatri, non può andare nei cinema, non può accedere a delle sale per delle conferenze, per degli incontri. E quindi niente, creare questi momenti liberi per tutti, come più o meno stiamo facendo adesso per gli aperitivi. E poi quello che stiamo facendo, poi magari lascio la parola a Erika, si stanno facendo un po' degli approfondimenti su varie tematiche. Abbiamo appena iniziato, e, no, ok, parlo io, ok, no, niente, dice di dirlo pure io. E allora no, non niente, siete appunto... in due oggi, parli solo tu. Pensavo... È un sostegno e basta. Esatto. Okay. E, per dire, sabato dopo la piazza, dopo il carnevale, ci eravamo messi in contatto con qualche compagna di Olga, e sono venuti a raccontarci un po' quello che è successo nelle rivolte di marzo nelle carceri italiane, e a presentarci il presidio che si terrà martedì, cioè domani. E quindi anche una questione come il carcere è uno degli argomenti su cui si sta una minima approfondendo. Cioè, per dire, ci sono tantissime persone che non ci hanno mai avuto a che fare, anche indirettamente, non hanno mai ragionato su quel che fosse questo strumento in mano allo Stato, questo dispositivo. Ed è stata anche una bella chiacchierata, qualcosa che addirittura penso sia sorprendente, purtroppo in questo periodo, no? Dove siamo abituati, in questo periodo intendo gli ultimi anni, dove magari siamo abituati a un'indifferenza notevole su tantissime questioni, soprattutto delicate come quella del carcere, il CPR, o tante cose di cui negli anni si sono occupate solo poche persone. Invece in un contesto di lotta, in un contesto dove c'è voglia di conoscere, di imparare, di ascoltare, anche un argomento delicato come questo è stato colto con davvero interesse e una sensibilità incredibile. E quindi non posso che essere veramente felice anche di questo aspetto qua. Perfetto, dai, allora niente, avete già le iniziative fino a quest'estate, non si va al mare quest'estate, si va a Bussarsizio in provincia con le zanzare. Ma abbiamo l'aria. Ah, ok. E, no, niente, la domanda che ti volevo fare per chiudere un po' la chiamata era appunto se c'erano già iniziative fissate o se comunque sono in programma, se ci sono fissate, se avete voglia di rilanciarle. Ma oltre la solita presenza in piazza il sabato dalle 16, no, per ora non c'è niente di fissato. Se c'è qualcuno in ascolto della provincia, ricordo che ogni martedì ci troviamo alle 19 per fare l'assemblea popolare lì a Busto. E niente, no, per ora non c'è niente di particolare in ballo. Va bene, perfetto, dai, ti ringraziamo, vi ringraziamo anche se hai parlato solo tu, salutiamo l'altra compagna che è stata colta da mutismo oggi, ah, scherzo, un abbraccione grosso e ci sentiamo presto. E tra l'altro noi ci sentiamo un gruppo della provincia, è un pezzo nuovo, hanno appena fatto uscire i CD, loro sono i Trashed e ci sentiamo Sex, Drugs, Rock and Roll. Ciao Dai, ragazzi. Grazie per lo spazio. Ciao, buona serata, ciao, buon ascolto. A presto, ciao ciao.

Allora, sono le 21, siamo giunti anche stasera quasi in conclusione con questa puntata del 7 marzo di Cronache di Regime. Questa era Toccati mentre vomito dei Colpos e ora sulle note di Gloria Gaynor proviamo a dire tutte le iniziative che ci saranno in questa settimana o perlomeno le iniziative che sono riuscito a reperire fino all'oggi. Domani è l'8 marzo. Quindi appunto ci saranno molte iniziative organizzate soprattutto dalle compagne. Iniziamo appunto da un'iniziativa che dallo sciopero transfemminista contro la guerra. Ci sarà il corteo alle 9:30 in largo Cairoli e poi la stessa realtà insomma farà una chiamata pomeridiana alle 6 in piazza Duca d'Aosta. Però iniziamo appunto alle 9:30 con lo sciopero transfemminista contro la guerra in largo Cairoli, poi ci sarà anche il corteo chiamato dai Sicobas, sciopero generale contro oppressione di genere, guerra e carovita, che partirà alle 10 da piazzale Gordusio a Milano. Sempre alle ore 10 ci sarà un presidio in via Monreale 13 organizzato dalla consultoria autogestita e dalla rete Tanta Salute contro lo smantellamento della medicina territoriale di quartiere, contro la chiusura e il depotenziamento dei consultori pubblici, contro la privatizzazione delle attività e dei servizi di cura, salute e prevenzione, e soprattutto sarà in via Monreale perché sarà contro il trasferimento del consultorio di via Monreale all'ospedale San Carlo. Poi domani ci sarà in giornata in università, in via Conservatorio, un'iniziativa organizzata dall'Assemblea di Scienze Politiche, quindi la mostra fotografica e interventi nel cortile di Scienze Politiche. Riprendiamo in mano la giornata che ricorda le rivendicazioni sociali e politiche delle donne. Domani sera, come ogni martedì, consueto appuntamento presso la libreria Nanzi, invece in via Breda 54, con le proiezioni di manga. E domani ci sarà Tekkonk Ink Street, scusate, Tekkonkrete, ci sarà questa proiezione in branca. Passiamo invece al 9 marzo, la mattina ci sarà un presidio fuori alla piazza dell'Ateneo Nuovo presso l'Università degli Studi di Milano della Bicocca. No alla paura e no alla censura, un presidio in sostegno a Paolo Nori e a tutti i docenti ingiustamente richiamati, minacciati o censurati dal nostro Ateneo. Ci sarà invece alle 9:30 un presidio in solidarietà e sostegno agli imputati e alle imputate del movimento di lotta per la casa per lo sgombero avvenuto in Via Nera nel 2012. La lotta non si processa, appuntamento fuori al tribunale, quindi alle 9:30. Passiamo a giovedì 10 marzo, secondo appuntamento di Labyrinthus 2.0, forme di resistenza nello spazio digitale. Il nemico in tasca, ovvero come usare lo smartphone in corteo e farsi citofonare dalle guardie, farsi tracciare in ogni spostamento, condividere foto filmati nel posto e nel momento sbagliato, farsi riconoscere a volto coperto e cedere nelle comunicazioni in via telefono e in chat. Incontro a cura del Lab 61, c'è il sito lab61.org. Questo incontro, come tutti quelli di Labyrinthus, si terrà presso la nuova FOA Boccaccio 003 in via Timavo, in via Timavo 12 a Monza. Venerdì 11 marzo ci sarà invece un concerto Benefit 130.000 e quindi iniziamo a entrare nel clima delle giornate in ricordo di Dax. Ricordiamo 130.000 è la campagna per sostenere le spese legali a cui sono stati condannati due compagni che sono stati anche vessati nella notte del 16 marzo del 2003 presso l'ospedale San Paolo, e quindi ci sarà questo benefit al Baraonda, Street Punk e Ska, un tranquillo venerdì di poco. Suoneranno i Miners, gli Zeman, i Red Bone Heroes e gli Stiglitz al Baraonda in via Pacinotti 13 a Segrate. Passiamo a sabato ci saranno un paio di iniziative, di quelle che sono riuscito a ritrovare purtroppo alloggi. Dalle ore 16 in poi ci sarà presso lo spazio comune Cuore in Gola in via Gola a Milano, rugby sportivo al Cuore in Gola, presentazione del corteo del 16 marzo in ricordo di Dax, e poi dopo ci sarà la presentazione della giornata di sport popolare del 19 marzo, e alle 17.45 il quarto appuntamento itinerante del Sei Nazioni con le proiezioni. Questa volta le birrette alla spina e il terzo tempo saranno di autofinanziamento per la giornata di sport popolare che si terrà appunto il 19 marzo. Sempre sabato 12 invece, presso l'associazione Revdar, ci sarà un'interessante iniziativa dalle ore 17 che dal titolo La repressione ai tempi dello stato d'emergenza e del Covid. Se ne discuterà con l'avvocato Benedetto Ciccarone. A seguire ci sarà l'aperitivo, quindi dalle 17 questa iniziativa a Revdar, che si trova in via Digione 7, la metro di riferimento è Wagner sulla Rossa. Passiamo a domenica 13 marzo, domenica 13-12, presso lo spazio Magenta a Sesto San Giovanni, ci sarà l'iniziativa Non un soldo, non un soldato per la guerra imperialista. Dibattito sulla situazione in Ucraina, sul ruolo del governo Draghi e della NATO con la redazione di Antitesi. Quindi il 13 marzo dalle ore 17 in via Magenta 117 a Sesto San Giovanni. Metro di riferimento l'M1, la Rossa, Sesto Rondò. Bene, queste sono più o meno le iniziative che ci saranno in settimana, sicuramente ce ne saranno altre. Sono le 21.07, ora mandiamo l'ultima traccia, l'ultimo pezzo di stasera. Quest'oggi la puntata è stata quasi totalmente punk hardcore derivati, diciamo, e non potevamo che chiudere con un gruppo milanese hardcore bello tirato. Questi sono i Sottopressione, I venti dell'odio si chiama la traccia. Noi vi salutiamo, vi ringraziamo per l'ascolto e ci sentiamo lunedì prossimo, 14 marzo, sempre dalle ore 19, in diretta da Revdar con Cronache di Regime. Buona serata a tutte e a tutti.